Bentornati alla rubrica Dal senso comune alla scomunica del suo senso. La sfiamma da cui partiamo oggi è: io sono fatto così. L'io non esiste se non come creazione e illusione. Infatti fin dalla sua origine storica la conoscenza è un morphing metaforico, un'interpolazione di forma fra l'oggetto della percezione e i bisogni del soggetto in questione. Quindi spesso la frase sopracitata è una presunzione conoscitivo giustificazione che frena l'introspezione e l'evoluzione. Girando la medaglia ultimamente sognavo da caperti di essere un altro, e ciò mi rivelava un vuoto che però non affrontavo, restando nella routine in cui inserivo quella proiezione come sfogo burattinaio che termina lo spettacolino a testa bassa, intanto il teatro dell'autostima in rogo. E io che mi lamentavo di non avere nemici, solo perché dimenticavo che sono nascosti nell'ultimo posto dove guarderesti come dietro ai dogmi che rigi voler essere John Malkovich, uno dei mali attuali. Riassunto nel brano: voglio farti innamorare tanto da Max Pezzali. Apologeta della mediocrità che ama ogni cosa ma nella routine, quindi ama solo la routine con la mare in bocca. E una modestia frutto di vertigini nel mare dove non tocca smontare questa morale, ricostruirla con calma partendo dal niente. Come azzerandomi nella meditazione trovo in me stesso cose che non troverei attivamente. È il potere del silenzio che sulla terra non esiste nel senso di assenza di rumore, ma è calmarsi, ascoltarsi, aprirsi in odore, sapore, colore, bruciore. In parole povere che non affronta nulla, poi cerca di riempirlo senza pazienza, tutto in una volta. In parole ricche, tutte le parole sono povere in confronto alla ricchezza dell'esperienza. Ogni definizione è una condanna che incarcera il divenire, io faccio violenza sulla violenza della scienza. Mentre l'uomo medio che cerca di fuggire dal tedio con novità e mutamenti, sacrifica ai media la sua capacità di riconoscere i veri mutamenti. Voi continuate a fare i saggi nello spazio che vi ha dato Marlock sul mio spazio, ma forse i veri saggi sono altrove. Prova a mutare lo spazio da Euclide, Riemann, Lobacevski, Einstein, Calabria. Oh, finalmente un po' di noia, la provo così raramente che assieme allo stupore ora è la finestra grazie alla quale mi trovo affacciato sul niente. Chi inganna il tempo viene ingannato dal tempo. Chissà, chissà, chi sei, chissà, che sarà di noi. Lo scopriremo solo costruendo i sogni che non metto in un cassetto. Tipo l'esempio di posto stretto e nascosto, l'opposto di un grande progetto, nel nostro caso un denudamento diretto. Nelle folloforie greche si adorava un vermicello eretto di legno gigante. Nel paese del sollevante lo fanno ancora alla glande. Astronomia è la parola che ingoia tutte le parole. Affrontiamo l'inesprimibile con ironia. La volontà di verità che ingoia biblioteche è una forma di bulimia. La conoscenza è metabolismo, per usare una metafora meno legata al nerdismo e al mi ricordo bene solo il nomismo. Movimento che non ricordi perché al liceo un povero Cristo te l'ha insegnato in modo manualistico senza affrontare il vuoto intrinseco. Ci sono cose che nella vita ho imparato subito, come l'empirismo. Un mio amico all'elementare rispondeva ad ogni mia frase dicendo dammene le prove. Ed essendo spesso le mie prove nel passato altrove, complicavo ogni discussione riuscendo a dimostrarne quasi sempre l'indimostrabilità. Certe cose come il silenzio invece le imparo in modo così lento che a volte mi sembra di non impararle mai, forse perché tra queste c'è la pazienza. Paziento, i cambiamenti strutturali sono lenti e graduali. Questa non è una pippa. Questa non è una pippa. Questa non è una pippa. Questa non è una pippa.